20:58, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi 22 aprile 2020. www.ondarossa.info, il nostro sito internet. Anche per chi ci sta ascoltando attraverso un computer, il telefono è sempre quello, il fedelissimo 0649 1750. Spazio che i più affezionati sanno, dedicato all'industrial, all'ambient, al noise, insomma alla sperimentazione in genere. Ricordo il radio abbonamento anche in questo momento così difficile da molti punti di vista, ma noi continuiamo e andremo avanti almeno per un mese. Si va sul sito della radio, appunto www.ondarossa.info, si va a cliccare sul banner specifico e si possono scegliere le varie modalità di adesione, crowdfunding, bonifico, eccetera eccetera. Salutiamo Maya e Nicola Locci, stigmate dalla Sardegna, Laura Spirit Crusher da Frosinone.